come ti sembra? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutto buono. Non ho capito, non avete parlato in due. Ho detto abbastanza buono. Meglio così. La radio è buona, amplificata, sembra anzi amplificata. Sì, sì, sembra buona. Ah, avanti l'altro che c'è sotto, chi è? Chi è quello che stava parlando sotto Antonio? Tengo un indigeno, intendo. Ah, un indigeno? Tu? E tu cazzo di Mao Mao. Bravo, adesso. Già esci bene, già esci bene. Chi è? Ehi, dimmi. Da te è passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto usando un'ala 68S. Ehi, a voglia, che ti ascolto bene, Daniele. Mi hai sentito da Itin, ma dove sei? In macchina, sì. Ah, ok, già va bene. Stai uscendo benissimo, stai uscendo. Aspetti, passo Antonio, intanto è a quadrato, già lo senti. Avanti, Antonio, per Daniele, dai tiri. Appa, salutone Daniele. Appa, appa. Ehi, ami, adesso tra un po' metto il 48, vediamo se mi ascolti ancora così. Aspetta, adesso mettendo le viti che mi viene male, se no. Appa. Io propongo il 48, secondo me è molto meglio. Cioè, con le 68, quello lì, come ti cazzo mi chiama? E c'è il microfono suo già. E allora, è l'originale. Che ha? Sta pompando, eh? Oh. L'importante è che ci abbia fatto, se no non facciamo, non studiamo niente. Ce li hai fatto, ce li hai, non ti preoccupare. Già si vede quando schiacciate. Si abbassa per la lampadina, se no non si era abbassata la lampadina trasmita, capito? Se non lo assorbe vuol dire che non stavo uscendo. Sono manco fuori frequenza, Gianto. Cosa sono fuori frequenza? 27078. Sicuro sì. Come sono neanche accorto io, questa. Sicuro sono, certo ti sto ascoltando con l'HF. Ti ascolto benissimo, è strano però, 078. Sono neanche toccato il coso. Aspetta un attimo che mi metto con le cuffiette, così vedo se sento il sibilo. Ah, io pronto la bene il clarifer, invece fuori frequenza, c'è la 27078. Ehi, hai già appena. Ma ho toccato dopo quello delle... Comunque già... Già regola, adesso là, 2 minuti. Mettiti le cuffie in regola. Tanto come mi stai ascoltando di radio, che ho cambiato microfono? Una bomba, mi sto ascoltando. Un po' più forte, no? 85 con l'equalizzatore sono cazzi. Già l'ho tolta. Una bomba, sì. No, quello lì è mio l'apparecchio, però... strano che scontasse. Tu non te ne accorgi tu perché sei... ma io sono a sintonia contigo, me ne accorgo. 27078. Infatti gli ho detto, ma Antonio è un FM. Ho girato ed era a 27078, capito? Non posso sentire, ma come mai questa storia? Evidentemente c'è da toccare qualcosa, non lo so. Lo metterò a posto. Siamo a poco, guarda, col 440 sto andando adesso, 440, 140 ce l'avevo ieri, questo è il 440, non intende la differenza. Il 440 è 440, non c'è altro a fare, no? Claudio. Oh. Vabbè, come va? Chi è? Vabbè, siamo un po', ma... Ciao Vanietto! Io sono che ho cambiato radio. Ma ci fa vedere in due. Allora, uno è Vannino, ciao Vanni, buonasera. L'altro chi è? Che non ti ho riconosciuto, l'ho cambiato radio, ma stai arrivando basso. Daniele sono qua. Ah, e cosa stai usando? Il 100. Il 100? 14, 140 è questo. Ah, la radio è più bassa. bassa. E poi dove ce l'hai appena acceso, quindi ti sta dando pochi watt. Adesso già va bene, prima di più basso è modulazione. Già va bene, già va bene. Ottimo per la truppa. Cava. Che c'ho, proprio l'antenna qua. Quando c'è il campo, come inizia a piovere, si mette ad accordare, non finisce più. Come smette di piovere, già per smettere di piovere si è accordato. È un casino. Ascolta, adesso io sto usando il 440. Abbiamo fatto al contrario. Ieri avevo il 140, oggi ho il 440. La modulazione com'è, è superiore? Questa è più chiara, Claudio, un po' da quella di ieri. Più forte anche, più amplificata. E si conferma, e si conferma. E questo è l'MC80 che sto usando io adesso. Già va bene, no, io sto andando col 60, però ho detto che inverto le antenne, sto andando col 440, fa 27, 10 metri, 140 l'ho messo in 40-80, giusto per invertire un po', perché se no non la uso mai questa radio, capito? Vannino carissimo, buonasera. Ciao, ciao, è fatto lì. Comunque, dove stai? Tutto a posto? L'altro non ha ascolto comunque. L'altro è Daniele da Ittiri. Tutto a posto, Vanni, si tira avanti, a parte i dolori, tutti i canti di passi alti, ma si tira avanti, dai, si tira avanti. Quelli sono come stupidi, chi ce l'ha sui piedi? vabbè, che ci vuoi fare qua? Si invecchia, ma almeno invecchiare a tutti i dì. Lo so, Vanni, ma a me adesso di non me la fotti nulla, hai capito? Sto bene così come sono, non sono mai stato ricco, quindi sto bene così, va bene. Però i dolori stanno aumentando e quello è... inizia la preoccupazione, capisci? Perché se non stai bene di salute è un bel casino. Vabbè, comunque, sono Biglielocci. Avanti, Antonio Bombo, lo senti a Vannino al Sorso? No, non va più. Va bene. Ragazzi, però io mi devo spostare un attimo, quindi vi saluto momentaneamente per Daniele, Vannino, Antonio, Antonello Pomponio e così via. Mi devo accendere la caldaia, se no io quasi muori dallo freddo. Ci sentiamo dopo, ok? Ciao Vannino, un abbraccio, saluti a casa. Ehi, a dopo, se questi, dai, io faccio. Ehi, accendiamo dopo, Daniele, che devo accendere il Maravà e poi c'è anche la partita della Juventus col Napoli. Ci sentiamo dopo, ragazzi, sono attivo comunque, sono qua. Va bene, non c'è problema, anch'io qua mi accadere il primo turno, va benissimo. Pompo! Attenzione 10, c'è qualcuno? Ah, adesso faccio la cosa. Ora. Chi è Gianni, tu. E via. Buonasera Gianni, buon contatto. Ciao. Un attimino, sto facendo un secondo una prova. E così mi dici. Aspetta. Va bene, prova. Non stai uscendo già, ci sei tu. Prova già. Allora, Daniele, guarda, dammi un controllo così. Aspetta, così è solo quel povero minimo. Vabbè, la stessa cosa, dai. Dammi un controllo così. Abbassa la modulazione, già, sei troppo alto di segnale, sei... va benissimo. La modulazione è bene, guarda. Guarda se riesci a abbassarla un pelino, cioè, è troppo amplificata, se no. Guarda, adesso... fai un passaggio più lungo. Attenzione, Daniele, se ascolti proprio un cambio. Per me qua va bene, già, sei no, per 5 ampiti positivi. Ok, questo è un passaggio, adesso ne devo fare un altro. Cara... guarda così come arrivo, 1, 2, 3, 4, 5. Fallo già, sembra sempre uguale. Sei appena di... ti occupo con il radio forse. Se lo occupo. No, questa qui è il minimo, è a potenza minima. Ah, ecco, c'è il cupo. Ah, un cupo. Cupo, cioè, poi un cupo più basso di amplificazione, ecco. Questo mi sembra di agganciato con più basso. Allora, questo qui è un passaggio, se ti faccio l'altro diretto e mi dici com'è. Guarda, questo è l'altro, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5. Prima sei sceso leggermente il segnale, poi al secondo passaggio eri più, appena più alto. E la radio com'è al secondo passaggio? 1, 2, 3, 4, 5. Va benissimo già, già te l'avrei detto, va bene, va bene. Mi sento anche una ventolina sotto, un qualcosa. Ma non è forte, perché ce l'ho sotto l'alimentatore. Aspetta adesso che regolo tutto. Però va bene, io non toccare più bene, per me va bene a queste parti già. Ma devo regolare il water. Ecco, va così, regolato. C'è una linea che è fastidiosa, è l'amplificazione che giustamente si porta a prezzo tutto quello che sta intorno. Cava gara. Hola, thank you, DX. Cara, cara, così va bene, guarda. Così ascolta bene a tutti. Avete tutti questo segnale e questa radio andrebbe bene. Cava gara, dai. Aspetta che là c'è la modulazione perché ho messo la potenza minima. Guarda adesso se va meglio. 1, 2, 3, 4, 5. E così è aumentata la radio già. Cava gara. Un poco, da un tantissimo poi di poco si mette più amplificata. Dai, ti andrò a vedere la soluzione e basta, vai. Oh, già va bene, già va bene, sì. Tu bene, ti ascoltando già. Perfettamente, perfettamente. Non sono altro di radio, no? Vabbè, la radio presente, si sente che il capo. Cara, cara, e questo è il tuo microfono del capo, dai. Non è il 60 questo. Com'è l'originale, no? No già, questo è l'80. Ma sembra lo stesso, se esce bene io te lo dico. Sembra male il 60, esce bene. Perché ne ho due, il 60 nel 40 e l'80 nel 14. Ah, capito, vabbè. Te li sfrutti tutti e due. E allora, ieri stavo usando il 40 e oggi sto facendo girare il 14. Ehi, già va bene, già va bene. Mi sarà tossicata anche l'antenna adesso. Ehi, io stavo aspettando una risposta di Antonio, deve passare a prendersi un calvetto. Non si sente. Era poco fa. Ma cosa stava passando? 5-10 minuti fa era in radio. Corrivo! Ma più ripreso. E lui mi pare che sia entrato. Ho fatto sgranchire le gambe un po' al pupo. Sto arrivato già. Ehi, col bambino sì. Sì, già. Sono col bambino. E allora scendo io, quando sei arrivato me lo dici. Sì, già. Ok. Già sono qua. Occhio come quando vuoi sotto casa. Tanto la radio bella Antonio, secondo me se non corrisponde, e avanti vediamo un po' se mi sente, se mi sentono lì in quel paese. E già Antonio, ti sento basso, dimmi. Scappa, sono qua in via Coso. Vai, in ora buona, vanno mi bene. Ma la radio bene la senti la mia? Ah, bomba, ti tengo. Adesso proviamo a mettere questo, se... come si chiama quello che c'ha 40 canali? 68. Proviamo a mettere questo, vedete se fa un po' meglio. Se fa un po' cagare, fa. Ecco, adesso ti sento bene. Com'è la radio, come mi senti? La bomba già. Ma è limpida oppure sa? Sento benissimo. Adesso appena che cosa vediamo questo apparecchio, vedete se fa un po' meglio. Perché non anda chissà, non pompa. Ma hai capito cosa ci vuole appresso? Già lo so cosa ci vuole. Adesso provo a cambiare l'apparecchio, vedete se fa un po' meglio. Ma quello omologati più o meno stesso lo stesso, lì non è che cosa, a meno che abbi quelle modificati. Se hai tirato magari qualche cosina meglio. Avanti, c'è anche Daniele, Daniele. Ecco, io lo sento più ad Antonio, mezzo al QRM. Lo sentivo abbasso anche io, figurati. Non funziona un cazzo questa cosa. Allo zatto. E niente, però sono scelto l'aiutino, poi si può la rifare. Scappa gatto. Non è entrato nessuno stasera, oltre lui. Oh, è stato Claudio, per i saluti, poi è... chi c'era? Pomponio, ma è sparito. Ah, e lui intanto sparisce, poi rientra. E vabbè, io mi sono tutto ad Antonio, adesso quando mi sono toccato scendo giù e gli rapporto questa roba. Già va bene. Aspetta, guarda che sta piovendo qua. Ehi. E qua tutta la sera che piove di rotta. No, adesso ha smesso. No, perché se inizia a piovere, allora si mette a raccordare. Poi smette di piovere, raccorda perfettamente. Ma giro di poco tempo, non è che ci metta più di tanto. E adesso a capire se è questione di capo. Qua c'è un'altra prova, prova lo stesso, eh. Prova già. Stavo facendo un'altra prova, ma belli se si guarda, quindi non conviene manco toccarlo, va bene così, lo lascio così e buco. Qua con 14695, capiti così tu. Che ho pagato. E già va bene, dai. Perché è un po' negativa la zona tua per me. Ehi, tu stai arrivando benissimo. Beh. A Puglia. Ma pensare che io sono acquistato in questa conca. È arrivata anche molto più forte. E sono proprio di fronte ai sassari. Ho capito. Antonio, beh. Sei arrivato? Non capisco, sei arrivato o no? Sì, sono qua al monte. Ma dove sei? Che zona? Diamantone sono. Ah? In giro vedi? Già, ero in giro. Noi siamo adesso. Adesso sì, Antonio, adesso ti sento chiaro e forte. Non è che sia molto lontano da te. Se non vedi, ma la radio si è schiarita, è più forte. Ebbene, se sono qua al monte. Cappagatta. Cagare questo fatto. No, non ho bisogno di fare. No, non sta fanno. Portare ci vuole un microfono amplificato e un linearetto. E dopo mi dice per voi. Sì. Se te lo copri il microfono amplificato, comprati K2O, quello che c'ho io. E quel buono. Ma sì, ma io non mi dico abbastanza, non ho fa un cazzo questa cosa. E dai, per iniziare tu va bene, e poi magari ti dai una regolata. Avanti Daniele. Ecco, non so se ne ha sentito, e tu un aiutino ci vuole già. Un buon microfono aiutino. Stai viaggiando alla mia fila di QRM, che qualcosa si riesce ad ascoltare, e poi c'è anche l'aiuto ancora meglio. Daniele, ti lascio un attimo che scendo già a portare quella roba tu. Già, lo sono qua. Sono adesso cazzo. Cosa è andato? Sì, un falso contatto c'è. Dove c'è il PLL c'è un falso contatto. Come vi sentite adesso? Qual è il passaggio più lungo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, va bene, Antone, per Puglia. Ora. spero che guardi bene adesso, però ci faccio contatto, devo fargli il saldato di nuovo, dove c'è il vicino al PLL. Cara, te lo fa, stai arrivando bene. Nel K69 e Radio 5. Ho capito. Però vorrei capire qual è la saldatura. Arrivare a 4 devo staccare tutta la bagassa, cazzo. Risulta sotto il commutatore dei canali, tocca staccare tutto il frontalino di nuovo e arrivare dove c'è il quarto e saldarglielo bene. Che cavolo, vabbè, se vuole fatto. Perché così viene male, mi hanno vedi? Adesso sono spostato. Mi hanno vedi? Adesso sono centrato, guarda, sto premendo il circuito stampato, adesso sono centrato. Oh, qua non cambia. Non cambia quasi nulla, aspetta, sotto sempre bene. Abba. Vabbè, penso che domani mattina staccando tutto, e così è meglio farlo, se no cazzo così rischio di bruciarmi tutto, va. Non ho mai stato accorto Claudio, io non sono accorto perché pensavo che stavo uscendo bene. Ora, adesso è chiara la radio, 1, 2, 3, 4, mi sento nel primo, adesso mi sento benissimo. Però quanto è? Mi risulti a 0,77 qua, non a 75, a 77, 6,95. Se uno leggermente fuori, e il costo, dopo il quarto, c'è quell'affare da che devo regolare. Domani già la mattina devo staccare per forza tutto quanto. E rifargli le saldature. Gava, guarda, io sono a 77 adesso. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Vabbè, aspetta che stacco questo, attacco l'altro. Allora, domani questo facciamo. Adesso comincia già a fare buio, c'è la luce contro, ciò. E lui ci vede un affanculo. Che la gara. Poi la medicina domani, e rimetti dopo, in linea. La medicina dell'occhio. La medicina per i bambini devo fare, cazzo. Tutto da staccare, ragazzi, tutto il frontalino, cazzo, da staccare le due viti che ci sono nel fianchetto anche, per poter estrarre il commutatore dei canali. Perché lì c'è l'integrato PLL e poi c'è lì il quarzo e quell'aggeggio che regola la frequenza. Che baracchino è, Anto? Una alla 68. Ah, che appagato. E non vale la pena di stare a pentarsi su quella parita. Allora, ragazzi, riprendo io, dai, sentiamo dopo e sto andando a fare una commissione. Ciao, dai, ciao, ci sentiamo, dai. Non a questi greca, allora. Tanto è, ho detto, ne vale la pena, ma è nuovo. Sì, già è nuovo, dai. Diciamo che già è nuovo, già ne vale la pena sistemarlo. Antonio almeno se lo piazza in macchina adesso. Ah, là 68 Sì, già. Io metto 48. No, 68 Aspetta che attacco il corso. L'altro apparecchio io, dai, 2 minuti. Se sarò male, sì. Ah, chi è che adesso magari ce l'ha un po' così. Ma sempre cose fatte in breccio, non è meglio metterlo a nuovo, colui magari come era tanto tempo fermo, si è seccato, come si è andato a Tullio, lo si è spaccato. Ma la mano era già rotta. Ma non è un problema, tutto quello qua non mi sto neanche preoccupando. Già mi è piaciuto da qualche parte, già l'ha visto io. Vabbè, se non ti fa passo contatto. Ma pure il nuovo non è fa passo contatto. Ah, nuovo no. Vabbè, ma è una 68, non è 48. Va bene lo stesso, cosa me la fotti? Sì, va bene. Chissà se in realtà è uguale, non lo so, colui mi sto dicendo. Preciso identico. E allora va bene. Adesso con l'altro. Meglio, eh? Dagli quello adesso, dagli quello riattore. Se ce l'ha. Quello modificato. Quello modificato è il 548, che l'ho modificato poco fa. Poi c'ho questo qua. Ma c'è anche la 87, c'era anche Antonio Bombolo, mi ce l'ha, lui, ce l'ha uguale al mio. Quello suo c'ha due finali, cioè un finale in più c'ha a me, è meglio del mio. Sono due chiso di carriera, dice che se va per andava. Quello era il nostro, era. Ah, il vostro era. Ma tu non ce l'hai uno modificato? Mi si l'ha venduto questo. Ce l'ha in Bucciuccio, ma che era una bomba. Secondo te ci sono tante queste carriera, questo è. Ci dovrebbe essere scritto rapido nei con coperti. Cioè, di carriera che sono, spiegami, di chi era quello lì? Era... Daniele me l'ha dato a me, poi non so chi l'abbia dato a lui. Secondo te di carriera chi so? Ah? Era di mio padre, era. E qui c'è scritto la 87. Però c'ha le... i pulsanti rettangolari, lo sai, quelli larghi. Cioè c'è quello che c'è, che ti avevo dato io a te, tu c'hai i pulsanti normali come quelli del 2009. Quelli stretti. Un po', quello era il nostro. L'aveva fatto fare mio padre, da Gigi Vulcano, da Roberto Rapido. Ma voi se ne vuoi sapere? Poi un giorno le è giunto in 5 minuti, ha fatto una cascetta e l'ha data a cosa? A Massimiliano l'ha data e se l'ha venduto, compreso. E non ti dico quanto perché mi viene l'angoscia, non te lo dico. Ho capito. E comunque già esce questo là. Sono con il microfono ormai, vabbè, se rimettono te seccato tende a uscire tutto strano. Poi c'ho anche il 2009. Che fermo, poveraccio, Manta me. Io ogni volta che lo sento quel baracchino mi viene la manicurina, mi viene. Perché non sapevo qualcosa a cazzo fare, non sapeva. Era quello, l'87 era, e poi c'era l'altro, c'era. Come cavolo si chiama? Mi viene una manicurina, mi viene. Te lo dico, te lo sto già dicendo, mi viene proprio la manicurina. Stava una panica buona, forse l'ha venduto, non lo so, mi si era arrabbiato anche io, fatto a figlio, era una roba più buona, se l'ha venduto, mi si è tenuto quello che gli è rimasto, quindi, comunque già va bene questo. Quanti ne sono venduti io? Il 80 mi avevo venduto il... come si chiama? 500 euro avevo pagato io. Quello VU e HF. Figurati tu. Ci avevo fatto male a vendermelo quello. Mi sono pentito lo stesso. A volte prendiamo la roba e ce ne pentiamo, ma io ti credo. Ha fatto tutto lo scattone e ha tutto dritto. cioè, è veramente una miseria, veramente. Mamma mia, guarda, la rabbia del giorno, cazzo. Non è buia la vita, qua. Lasciamo perdere, va, non voglio manco commentarci, non voglio. Allora, io c'avevo 12 anni, dubbi fu 2002. L'MK3, uno l'avevo venduto, l'altro l'avevo... Quanto gli è durato? Una settimana nemmeno, eccetera, eccetera. Allora gli ho regalato il mio, l'avevo regalato. Ma anche con quello ho preso, ho bruciato pure quello, perché mi ha fatto il ritorno di stazionare l'antenna e l'ha cribato. Adesso non so chi ce l'abbia, se l'abbia messa a posto oppure no. Ci volevano i cosi di si erano bruciati dietro, quelli che pilotano la valvola, capito? Come ha fatto dietro, mi sembra 3 o 4 licenze erano bruciate. E poi c'erano anche i condensatori, quelli grossi, quindi bisognava togliere i condensatori grossi, un casino era il V2002, l'MK3, a smontarlo e ripiazzarlo, un bel casino era. Sto scendendo, vado a casa, ciao. Ciao ciao, riprendi la linea. C'è uno che sta dicendo donna, ciao, non ho capito chi sia. Se vuole che americano deve essere. E l'ho sentito anche a mal di basso. E vada dove passa il vedo, donna. Chi è che vuole entrare a basso? Ciao. Ciao a tutti. Accetti, mi conosce al volo. Cosa? Al volo mi conosce. Beh, oramai le orecchie ce li ho. Ci mancherebbe altro. Ti pagava. E allora tu mi chiedo se cubinetti. Guarda, mi sono preparato la scala. Mi ho fatto un bel rinforzo, avessi vari vicchi e tagliato la gomma messo sotto i piedi della scala per fare il ferro. Io ho messo il gis, insomma, perché domani devo portarla lì, devo fare l'impianto, ma ha fatto il pavimento che è nuovo, così bene questo bel pavimento in ceramica. Che è 60x40, mattoni bellissimi, striati, e non voglio graffiare il pavimento, capito? Quindi automaticamente li ho belli corazzati con la gomma, non ne senti neanche da quando la scala sposta da una parte all'altra. Ah, vabbè, grazie, se li graffi tocca pure a bagagli, non ti conviene. E poi ci rimetto io la tasca, siamo un cucchio sul pavimento. Niente, domani si continua a guardare. Speriamo che non abbia, non penso di no, che il muro non abbia chiuso altri mattoni, perché ci devo passare ancora 2 figli, devo passare. Ah. Quindi adesso come ascolti di radio? Sì, un po' diciamo metallico. Metallico? Sì. Ma è distorta la radio? No, che va bene. E siccome domani li ho fatto passare per il campanello di casa, le luci delle scale, devo far passare ancora dell'interruttore che va a finire nel temporizzatore dentro, capito? Ero 6 figli o 4 figli, ho fatto passare, infatti molto saltare di nuovo. Spero che non me lo comprano, se io sono fregato. Sempre un casino. Adesso martedì viene quello lì e mi piace. Domani devo andare ad Alghero a prendere a Marco con la ragazza. Il temporizzatore comunque già lo so come funziona. Accendi da quello che vuoi, un minuto e mezzo, 3 minuti e poi spegne da solo. Giù l'interruttore a chiave, giustamente, perché sennò ognuno entra, accendi, ricade, buonanotte, capito? E poi quando esce anche la sua, schiaccia il pulsante e si accende la luce di scala, sempre con il temporizzatore. Ti ha pagato. Va bene. Niente, Giuliano, eh. Beh, con Pozzi. Tonino. Quindi state lavorando, meglio così, almeno sei tranquillo. E passi l'ora, a casa è la baraoia. Ma io ne ho sempre da fare, non sapevo i clienti, quindi. lavoro mio elettrico, non è male vero, io ce n'è, anzi adesso questo qua ha detto che ha comprato un negozio a Porotose e li faccio l'impianto io. Buonasera a todos, KK. Ciao Claudio, ben entrato. Ciao Claudio. Ciao raga, sto andando col 440, è regolato bene, ieri avevo 140, sì, è un passaggio lungo ma sembra di sì. Sembra di sì, vengo i bicchi invece a punta di gasino, questo lo spinge molto di più del 140, ora, anche la modulazione mi sembra meglio. Io va bene, dai, vanno tutti e due bene. Anche qua, perfetto, è l'ultimo. Alta la modulazione, va bene, non sta strappando, no? No, negativo, qua è ultimo. Perché non ti prendi un 440, che c'è bene? Non mi piace. Ma cosa vuoi pigliare con la VTZ? Continuate sempre a non ascoltare quelli che ne sanno più di voi. Per la 27 non ci sono radio, dico radio, di qualsiasi tipo, genere, marca, che possono andare bene come 140, 680, 430 e 440. Altrimenti io sarei imbecille, c'ho cazzo l'incomo da 2000 euro qua, cazzo mi attacco quello e modulo con quello. Non va bene la modulazione, è una gaggata. No, ma Torino vuole andare più su Baracchino, perché ha detto che sono troppo complicati quelli. Ho capito, più su del baracchino, il miglior baracchino inesistente per la 27 non ce n'è per nessuno, è il Galaxy Saturn Echo, ok? Ha attacchi all'Ipina, c'ha tutti i canali che ti servono, esce molto bene perché l'abbinamento che ha fatto Gianni è bellissimo, ma ne ho sentito tanti altri, a quello possiamo dire che è un baracchino, ma gli altri sono cicafusi, i veicolari non li posso vedere. Io qua in stazione non ho un veicolare sia come banda amatoriale che banda normale, non agio veicolari, non mi biasi. Manca a me, però io ho un baracchino che si chiama Cobra, che è un veicolare e pompa a voci. Gianni, io ti faccio vedere, ti mando la foto del Persipson 46, il P46 veicolare, che è grande, forse più grande anche del Cobra, ok, a 25 watt, non ha l'FM, ok, a 25 watt in AM, è 45 in banda laterale ed è un mostro. Non mi biasi, è sempre un veicolare, non ne uso, capito? Visto quel Galaxy che c'ho io, che non c'era nessuno, è bellissimo da usare, non mi biasi, non ne uso, baracchini non ne uso, non ne uso, ho il 440, c'ho il 140, perché il 430 l'avevo venduto, capito? Ad un radioattore che mi si è attaccato alle balle, quindi Tony, per esperienza vissuta, se non vuoi andare su questi tipi di radio, non andare su altri tipi di radio, sempre HF per usarlo il 27, perché non vanno bene, i migliori sono sempre questi di vecchia generazione. Se è trattato bene, io questo ce l'ho 10 anni, ho avuto una riparazione solo in 10 anni, una, il 140 che ho ce l'ho 13 anni e non ha mai avuto una riparazione, mai e poi mai, capito? Quindi se vuoi prendere un bel baracchino, io ti consiglio un bel Galaxy Saturn Echo, ma preso da persone serie. Capo Claudio, ma io non ho sempre detto, infatti l'altro mese sto portando su dove c'è la fiera del radioamatore, me lo cerco lì e me lo prendo. Io adesso sto usando, dico piccolo cicafuso, ma non è proprio piccolo cicafuso, ho sempre la Fayette 2400 FM e sta andando bene, che c'ha tutti i canali che c'ha il Saturn Echo, però a me piace il Saturn Echo perché stazione fissa e tutta la produzione. Mi piace un po', voglio aprirsi questo microfono che sto usando, lo Shure, è famoso, capito? E dovrebbe essere una bomba. E vabbè, aspettiamo un po', abbiamo aspettato più, aspettiamo nemmeno. Mi sono pentito di quello che avevo venduto. Tutto qua. Non si vendono quelle cose, non si vendono. Io l'ho dato perché non me ne facevo niente, praticamente ce l'avevo quando era carbonati, ma poi ho eliminato tutte queste cose, c'ho due scaffali pieni, ne ho 16 di base io, 16, e sono quasi tutti funzionanti, qualcuno vuole fatta qualche cosettina, ma fesserie, ma ne ho 16 di base io, di tutti i tipi, e non li uso perché non mi trovo, io sono nato con questo tipo di radio, e questi tipi di radio io devo andare, capito? Avanti Antonio. Via. io già c'ho questo, poi c'ho anche l'altro. Adesso domani devo aprirlo e pulirlo. Vado, ti giro tutto con le palle. Uso il fuoco, 2 secondi e riparte. Non ci vuole nulla. Ecco che ce l'ho avvicinato alla finestra per dire che cambia posizione alla 140 per forza. Vado per la finestra per l'umidità eccetera eccetera però in potenza non si riesce bene, solo l'audio e basta in trasmissione l'hanno fatto, perché non quasi più, è una cazzata questa. Ho preso il fondo 2 secondi, faccio partire la ventola, riparte la trasmissione radio naturalmente, no, l'importante è che ce l'ho, perché ce l'ho. Eccomi, sono rientrato. Va bene, le informazioni andranno bene, Antonio, poco fa di fuori frequenza, ma sicuramente quel cacchio di alla 48 vuole rivisto, capito? Avanti Gianni, riprendi e fai girare, chi c'è altra gente c'è poi. È entrato Antonio, vai Antonio. Capa, sono rientrato, da casa è molto meglio. Ciao Antonio. Ciao Tony, buonasera. Ma come dobili Anto? Se c'è la radio a casa, usa la casa, lascia bili la macchina, e niti usi buscima. Lascia verde, cazzo avevo freddo, non sono 6 gradi qua, fuori sono 6 gradi, dentro ne ho, ehi, quasi 20 ne ho già, va bene. Trovati già. Sì, in effetti, ma comunque in macchina se fa un bel impianto, già rende anche in macchina tu, rende anche in macchina. Io l'impianto che avevo in macchina con la Turbo 2001 mi rendeva come l'impianto che ho a casa. Mi mettevo sotto a casa e avevo lo stesso segnale che avevo da casa. Già, certo, quando c'avevi la Opel non ce n'era per nessuno, Vabbè che era carbonati, ma anche se fossi stato qua, quando partivi dai granai, cazzo arrivavi 9 più 10. Lo so, vabbè, devo dire che c'avevo anche 747 sotto, però avevo un apparecchio modificato, però andava bene. In effetti sto dicendo quello, se metti un impianto buono dalla macchina ti sentono bene. Lo so, ma Antonio non esce male in macchina, il problema è che c'è una modulazione bassa e che va a 4 watt, perché se lì mette un bel 747, un microfono amplificato anche con l'eco, un DM1000, come si chiama, M1000, boh, quello che usavi tu, che vanno bene, capito? No, il KPO, gliel'ho già detto di comprarsi quello, il KPO, che è il microfono che io uso con Cora. Il KPO non ce l'hai. Adesso vediamo. Cercalo Anto, cercalo, così lo qui. Adesso che mettiamo in diviso, mamma mia. Quelle fanno male allo stomaco, non te le posso dare. Becco, buonasera. Avanti, Sapei. Buonasera a tutti, a chi c'è in ascolto. E allora, bene, bene. Uscita, Non l'hai vista visto su Facebook, che è sempre in capo. Cos'è? Non ti ho compreso. Hai visto che il programma dei zanzari che sta di via buscetta! No, non l'ho visto. Non l'ho visto. Ascolta, come ti arriva il segnale di Assorso? Forte e chiaro. Ah, tu non puoi dare segnale, vero? Ho dimenticato che c'è lo smitter starà. Ciao Sappi, Claudio, sta arrivando lo stesso segnale di Antonello Pomponio. Ehi, mi sento tutti. Sappi, intanto non mi intendi a me, quindi non te lo rilancio. Sì, ti sento basso ma già ti sento. Ah, già mi senti, basso ma già mi senti, meglio così. Allora, dov'è? Affermativo. Riprendete e fate girare. Attacca di Aikla. Papà, saluto il Sapei. Ciao Antu, è me, sta a posto, saluta me Gabrielino. Tutto a poco, ma pensi al tremendo. Piano piano, là. Già va bene. Mamma, non ne ha più, però non ne puoi mangiare. vuol mangiare? La patatina vuole. Sì, li pizzini li mangio le patatine, ma non ne dare troppe. No, ma questo qua cura un malaffettone. Ah, cosa c'ha? Accettone? Non ne manca troppo, sì, me. Cosa vuoi? Cosa dici? Chiama le dinere, chiama le patatine, una roba del genere. Non è che riesce a piccare bene. Ci è rimasto, ma Daniele poi è rientrato o no? È uscito, non so se per un minuto oppure si è uscito definitivamente. Oh, Claudio! Ma basta col 3009 si funziona, mi sono pigli a fuoco, aspetta. Antonio, ma lo vedo c'è tutto qui il corso. Il Mitra. Raga! Tu! Ah, non quello che deve dare a te, quello modificato. Io non ne ho apparecchi modificati. Antonello, ho detto, non altro. Ma quale, questo qua? Sì, lo vedo. Questo mi dirà modificato, l'altro che ho, che è rotta mia nipote, quello è l'ala 48. 40 canali modificato di potenza e basta, è LC. Ah, ma gliel'hai fatto tu? Sì, sì, gliel'ho fatto io, ce l'ho a casa di Giovanna, ce l'ho. Gli ho dato l'alimentatore e gli ho detto di usarsi questo, cioè quello a casa. Per non usare il 3009 che c'è a Giovanna, capito? E con che antenna sta uscendo, con la turbo? No, ho la magnetica per il momento. Adesso appena migliora il tempo faccio due fori nel terrazzino vicino al caminetto e piazzo la Mercury 5 ottavi, capito? Tanto va anche in VU, quindi non ho nessun problema. Andiamo bene, sempre bene, Gigi, sempre bene. A me lo parla anche lui, c'è un apparecchio che vado che esce, c'è la 27 ma esce in FM, hai capito? Poi tutte le altre frequenze fa V e U, parte dalla 27 fino ai 990 e basta. Ah, è meno mia. Sì, c'è l'AM, è solo ricezione, c'è anche le bande laterali, c'è AM, FM, USB, USB, CV doppio. Cappa, Tori. Eia. Ripetitela così, ma niente. No, mi sono preparato la roba, ho preso l'area già. La trattatura che non mi manca niente, capito? E quindi sono poi da fare altro. Già mi ascolto, dai, continuate. Ah, si è preparato la roba per domani. Cappa. Va bene. Faccio capire. Io mi devo comprare una scala di quelle leggere, Tori. Sui 7 metri va bene per salire dove c'ho l'antenna, cosa dici? C'è la gabbina del coso, sarà 5 metri, non c'è 7 metri, vero? Ah, sarà 4 metri quello lì, dai. Una scala di alluminio a voglia, è leggera, è una fesseria. Comoda ma buona, perché io ho quelle in ferro, ho dovuto rivestire tutti i piedi per non graffiare il pavimento, ma io ce l'ho già roba di 16 anni quella scala, capito? Quindi qualche turma ha rotto il gradino, saltato, eccetera, comunque. E là me la compro in alluminio come si deve, perché è inutile avere scale vecchie e pesano. Io ho già citato le macchine, decidi lì dietro, fate conto. Comunque, prendete una scala anche di 4 metri, va bene. Noi contare anche una persona, mica la persona è 2 cm, minimo è 1,70 e quindi ci arriva benissimo sopra. No, da ditali le stanno vendo quelle a forbice, capito? Quelle più comode. Sono a forbice e tu sali tranquillo. Perché devo fare lavori anche a casa, devo raschiare quel soffitto, mi devo decidere. Prendi la rovina più leggera e economica, capito? E fai quello che devi fare. Poi invece per l'antenna è come metterla dritta, non a forbice. Sì, basta non aprirla, sei. Dai che continuo a guardarmi da una valigia perché mi manca qualche cosa, dai. E pare che costa quella che ho visto io sulle 100 euro, 100 qualche cosa. No, la brico che costa 200-300 euro, come vi dico io. Oi, Fufi! E' passa a tutti, dai, vi ascolto. Buonasera Emanuele. Buonasera Emanuele, qua San P. Ciao Ginko. Cappa, lo sente Emanuele, non penso. No, non lo sento. Cappa, Emanuele, ti dà dei saluti San P. Ciao P. San P. Sta giù due. Ma come si? Devo essere, si è allontanato. Oh, mi hanno fatto un uovo il pappagallo di Tony. Cosa? Hanno fatto un uovo i pappagalli. Oh, allora sono i figliuzzi. E adesso l'ha fatto oggi. L'ha fatto oggi perché ieri non c'era nulla, controllato e non c'era nulla, perché li ho visti che stavano entrando dentro il nido. E ho detto, ma mi sa che deve arrivare l'uovo. Infatti stamattina ho controllato e c'era. E quanto ne ha fatto? Uno, uno. Eh? Se sia femmina, così poi c'hai due femmine e due maschi. E infatti. Ma fa calibrare, questo fa dire ancora più casino. No, se li busco le ramiche dell'olivastro, stanno tutto il giorno giocando con le foglie, non rompono le scatole di nulla, non gridano, non fa. Ma se non vai nulla di mano, sai che mi hanno morsicato tutto il posatoio dove si posa loro, no? E me l'hanno consumato tutto con il legno, l'hanno fatto fino e oggi ho dovuto lavorare e andare in un albero che c'è vicino a casa, di quelli selvatici naturalmente, ho tagliato un ramo grosso che era bello dritto, l'ho tutto spellato e l'ho fatto io. Vuol dire che si devono allenare quando fanno così, capito? Orbeco o qualche cosa qui dietro praticamente. E comunque ci vuole troppa attenzione, già. E come lo stesso il cane, lo stesso i due piccolini, è un casino. Però ce li ho, sono pezzolate, me le tengo. E sono belli viziati. Andò bene veda. Sappi, riprendi. Antone, volevo dire, ma la Midland cos'è? Un 48 quello che hai, quello con la scritta in corsivo? Ma che stai dicendo? Ti posso parlare io di quella radio lì? Quello è uno, non è un 48, un 68. No, ne ho una nuova di seconda mano, diciamo, dentro la scatola, ed è una Midland Ala 48, quello che ha l'illuminazione bianco ghiaccio, che se tagli il filo verde va a 18 watt. Però tipo i tre piedini per fare 240 canali, non lo so quello che piedini ci vede, bisogna eliminare. Ciao. Assai di voi. Quello lì l'avevo pagato 100 euro, ma tu. Uh-huh. E nuovo mini, la cattura è tutto, perché me l'ha dato un ragazzo di Alghero che se n'era andato a abitare a Cremona e me l'ha lasciato qui su di lì. Se no nuovo costa 210 euro. Ha modificato? No, è originale, però dice che quello lì basta togliere il tappo, individuare dov'è il filo verde, lo spizzi e da 5 watt sale da 18 a 22 watt. Sì, vabbè, magari poi lo sfrutti troppo e ti brucerai via. Boh, non lo so, però in macchina andava isso. Sì, ma va più bene quello modificato, come ce l'avevo io. Io parlavo da portatore, parlavo con Alghero, con Pinangelo. Con Piragna? Pinangelo! Cazzo Piragna! Un Piragna di Alghero! Oh, già in basso i si sono modificati. Io avevo, c'ho il pisticcio, c'ho il doppio modulatore, l'alimentatorino in